piace fare una passeggiata e vedere tutte le belle cose. Oggi è un bel giorno per notare le discoteche e vedere le gambe ballando. Le donne sono molto felice, con una bella faccia e il testo ben piccato. Sono come una pompa quando vedo le cose. Una donna maggiore deve sapere che sono un uomo, sono qua ma non amo. Non camminiamo, non camminiamo. Mi piace fare una passeggiata e vedere tutte le belle grandi. Oggi è un buon giorno per notare in discoteca e vedere le grandi ballando. Le donne sono molto felice, con una bella faccia e il pezzo per pizzare. Sono come una pompa quando vedo io con gli occhiali preziosi. Una donna maggiore deve sapere che sono un uomo, sono qua ma lo amo. Non camminiamo, non camminiamo. Mi piace fare una passeggiata e vedere tutte le belle gambe. Oggi è un bel giorno per notare in discoteca e vedere le gambe ballando. Le donne sono molto felice, con una bella faccia e un pezzo per pizzare. Sono come una pompa quando vedo io con gli occhiali preziosi. Una donna maggiore deve sapere che sono un uomo, sono qua ma non amano. Non camminiamo, non camminiamo. Mi piace fare una passeggiata e vedere tutte le belle grandi. Oggi è un bel giorno per notare in discoteca e vedere le gambe ballando. Le donne sono molto felice, con una bella faccia e il pezzo per pizzare. Sono come una pompa quando vedo io con gli occhiali preziosi. Una donna maggiore deve sapere che sono un uomo, sono qua ma non amo. Non camminiamo, non camminiamo. Mi piace fare una passeggiata e vedere tutte le belle gambe. Oggi è un bel giorno per notare in discoteca e vedere le gambe ballando. Le donne sono molto felice, con una bella faccia e un pezzo per pizzare. Sono come una pompa quando vedo io con gli occhiali preziosi. Una donna maggiore deve sapere che sono un uomo, sono qua ma non amano. Non camminiamo, non camminiamo.